9 in punto. Buongiorno care ascoltatrici e cari ascoltatori e buon primo maggio, buon giorno di festa per chi non lavora, perché c'è anche qualcuno che lavora il primo maggio naturalmente. Oggi naturalmente parliamo di lavoro, ma abbiamo deciso di prendere un aspetto particolare. Ieri sono stati diffusi i dati Istat sulla disoccupazione, li avete sentiti, una disoccupazione che resta sostanzialmente stabile, cresce ancora una volta tra i giovani. Però non è dei giovani che vogliamo parlare oggi. Vogliamo parlare di una situazione particolare, che è quella che riguarda gli over 50, gli over 55, insomma i lavoratori che hanno qualche anno in più, che sono stati espulsi dal mercato del lavoro e per i quali la speranza di trovarlo un lavoro nel proseguio della loro vita è, insomma, molto più complicato, oggettivamente molto più complicato. Questo anche per una carenza o per uno scarso utilizzo di mezzi che sono a disposizione, per così dire, è una carenza, uno scarso utilizzo di politiche attive per il lavoro. Persone naturalmente che anche in forza della riforma previdenziale varata dal governo Monti vedono la pensione naturalmente più distante. Di questo parliamo oggi dunque. Io saluto innanzitutto Maurizio Sacconi, ex ministro del welfare, senatore del PDL, buongiorno. Buongiorno, avevi ascoltato. Carlo Della Ringa, deputato del Partito Democratico, ordinario di economia politica presso la Facoltà di Economia e Commercio dell'Università Cattolica di Milano e a lungo editorialista del Sole 24 Ore, lo avete sentito anche spesso da questi microfoni nel suo ruolo di docente, buongiorno Della Ringa. Buongiorno a lei, gli ascoltatori. Dovremmo avere anche Cristina Gringhello, direttore di Forema, la società di Confindustria Padova per la formazione e che si occupa anche intensamente di queste cose. Buongiorno Gringhello. Buongiorno a voi. Saluto però in apertura, vogliamo iniziare con una storia, Loretta Zecchillo, buongiorno. Allora, noi abbiamo rivolto un appello nei giorni scorsi dalla nostra pagina Facebook www.facebook.com/9in.radio24 chiedendovi, se siete in questa condizione, di raccontarci la vostra storia. Abbiamo deciso appunto di raccogliere queste storie anche per dare una dimensione umana a tutto questo, perché a volte se no si rischia di soffermarsi un po' troppo sui numeri e non stare appunto su quelle che sono le storie. Allora, Loretta Zecchillo, iniziamo dunque da lei e ci dica qual è la sua situazione. Guardi, io quest'anno, tra pochissimo, compio 60 anni, che sono nata nel 53, ho iniziato a lavorare a 17, ho lavorato come dipendente per 32 anni, come donna ho avuto anche purtroppo dei buchi di, diciamo così, di... Previdenziali, diciamo così, ecco, di esatto. Sì. Ecco, buchi previdenziali. Poi comunque a 50 anni ho perso il lavoro e sono riuscita a comunque a rientrare, però facendo una finta partita IVA. Mi è stata chiesta la partita IVA per continuare comunque ad avere un lavoro di dipendente. Dopo 5 anni sono stata invitata ad andare via perché comunque non avevo nessun contratto, quindi ero donna, 55enne, senza nessuna tutela, e quindi ho perso definitivamente il lavoro. Io devo dire che mi sono rivolta ai sindacati, ho cercato di proteggermi in qualche modo. E l'unica cosa che sono riuscita ad ottenere è stato un accompagnamento alla pensione, che allora era 60 anni. Mm. Quindi diciamo che da finta partita IVA sono diventata una finta esodata. Mm. Ora i 60 anni sono arrivati, i soldi sono finiti e la riforma Fornero mi impone altri 7 anni di... buco, perché non ho la pensione e non riesco assolutamente a trovare lavoro, perché se già perché, non si trova perché poi mi scusi Perché poi il problema è quello, cioè non è tanto il fatto di andare in pensione a 67 anni quanto il fatto quanto di... ad avere il lavoro, esatto. Esattamente, perché poi vede c'è un fatto fondamentale che il lavoro non c'è per i giovani, non c'è per i quarantenni, si immagini per le donne di 60 anni. Oltretutto devo dire che è vero che l'aspettativa di vita è aumentata, però a una certa età si incominciano ad avere degli acciacchi pesanti e quindi non è che si può fare la commessa, anche se io lo farei volentieri, farei le pulizie, farei qualsiasi cosa, ma non trovo assolutamente, ho mandato milioni di curriculum, anche se io sono una persona molto qualificata, non me ne importa niente, io ho un figlio, non sono sposata. Lei è qualificata, lei che mestiere faceva? Io lavoravo in un'agenzia di pubblicità, settore assolutamente distrutto dalla crisi, perché e quindi ne sappiamo non qualcosa. Immagino neanche sì. Di poter no, fare il mio lavoro, ma neanche per sogno. Sulla questione della pubblicità ne sappiamo qualcosa anche da queste parti, diciamo, nel mondo dell'editoria è assolutamente voglio darvi qualche numero sperando di non dare i numeri, però sono dati pubblicati dal Sole 24 Ore nelle settimane scorse, elaborati da Data Giovani. Secondo questi dati il numero di disoccupati tra 45 e 54 anni è aumentato nel 2012 rispetto al 2011 del 38,3%. La disoccupazione, il numero di disoccupati over 55 è aumentato del 60,4%. E quindi vediamo dove sta il problema. Carlo Della Ringa, come se ne esce? Allungando la coperta, perché stando giustamente alle cose che diceva la signora, qui non c'è posto per i giovani, per gli anziani vicini al pensionamento, che il pensionamento si è allontanato, e per quelli di media età che hanno perso il lavoro e fanno fatica a ritrovarlo. Cioè manca lavoro per tutti, perché la coperta è corta, l'economia non cresce e non crea posti di lavoro. Quindi questo è il primo problema, o noi riusciamo a invertire questa tendenza, altrimenti possiamo arrangiarci con politiche del lavoro che naturalmente possono aiutare, ma non possono risolvere il problema di tutta questa complessità. Si rischia di aiutare una categoria a danno dell'altra, proprio come la coperta corta si tira da una parte e si scopre l'altra. Quindi questo è il primo problema, come rilanciare l'economia, e questo penso che sia il primo, diciamo, la prima sfida che un governo deve affrontare nell'immediato, perché ormai la disoccupazione si è raddoppiata, era al 6,5%, adesso è il doppio, al 12, e oltre a una disoccupazione che aumenta, c'è un forte aumento anche di tutti, soprattutto giovani, che sono ritirati, scoraggiati dal cercare lavoro. E questo è un punto, naturalmente la crescita lo sappiamo, e poi ci sono anche delle politiche specifiche, Maurizio Sacconi, che si possono fare per dare maggiore attenzione proprio a queste categorie di lavoratori ben rappresentate dalla signora Zecchillo. Innanzitutto ricordiamo che il presidente del Consiglio ha evidenziato un problema inerente alla rigidità del nostro sistema previdenziale. Potremmo definirlo a questo punto il più rigido di tutta Europa. L'obiettivo di un innalzamento dell'età collegato all'aumento dell'aspettativa di vita era già stato assunto anche in precedenza con una dinamica automatica dell'età di pensione, ma la signora ci ha evidenziato il problema di una lavoratrice già adulta che in questo mercato del lavoro, con le caratteristiche che sono state ricordate, si è trovata improvvisamente proiettata in avanti di 6-7 anni l'età di pensione. Introdurre quindi flessibilità in questo sistema, coerente con il criterio contributivo, quindi la possibilità anche di qualche uscita anticipata, soprattutto in una fase di transizione che possa essere anche onerosa per la persona, ma tale da non costringere molte persone, soprattutto molte donne in età tra i 60 e insomma oltre i 55 anni, a doversi trovare senza lavoro e senza pensione. Bisognerebbe solo sperare che abbiano un marito benestante, perché la condizione di molte donne rischia davvero di essere drammatica con una rigida regolazione dell'età di pensione. Qualunque forma previdenziale prevede non a caso transizioni. In questo caso le transizioni sono state completamente cancellate, quelle che si chiamavano. Abbiamo perso Maurizio Sacconi, evidentemente adesso proveremo a recuperarlo, perché evidentemente, come avete sentito, c'era già qualche problema di linea. Saluto anche Davide Colombo, collega del Sole 24 Ore. Buongiorno Davide. Buongiorno. Che qualche giorno fa, qualche settimana fa, ha scritto un bel pezzo, non so se è andato anche sul quotidiano, è andato solamente sull'online, ma ormai, come sapete, nel nostro mondo le cose si fondono, dicendo questo: insomma, noi ieri abbiamo visto i dati dell'Istat sulla disoccupazione, tu dici sarebbe il caso che l'Istat, proprio per mettere in evidenza questo problema che è forte, lo abbiamo visto da quei numeri diffusi da Data Giovani, e però servirebbe anche una qualche fonte ufficiale, sarebbe bene che l'Istat iniziasse a mettere in campo nitidamente quali sono le statistiche che riguardano questi lavoratori, e che, come si diceva e come ci raccontava la signora Zecchillo, poi sentiremo altre storie nel corso della puntata, vivono una situazione oggettivamente drammatica e con pochissime speranze. Ora, quello che dico è che è drammatica la situazione dei giovani, per carità, no? E però, se i giovani hanno la speranza prima o poi di vedere la ripresa, l'uscita dalla recessione e un'aspettativa di vita più lunga, naturalmente, chi esce al mercato del lavoro a quell'età invece, insomma, la vede più complicata. Quindi sarebbe il caso di fare un'operazione di trasparenza a questo lato, Davide. Sì, ma la mia era un po' una provocazione di, appunto, un'operazione di trasparenza, ma anche un'operazione di comunicazione sul nostro mercato del lavoro, nel senso che noi abbiamo due problemi che si stanno attorcigliando pericolosamente, che sono il tasso di disoccupazione di lunga durata e il tasso di disoccupazione degli over 55 anni. Sono due indicatori. Il primo, il tasso di disoccupazione di lunga durata, cioè coloro che cercano lavoro attivamente da più di 12 mesi, è praticamente raddoppiato dal 2007, cioè dallo scoppio della crisi, a oggi in Italia. Il tasso di disoccupazione degli over 55 anni è una cenerentola nell'analisi del nostro mercato del lavoro. Viene considerato, c'è questa, come dire, abitudine culturale che è determinata dal fatto che noi abbiamo sempre avuto un sistema previdenziale molto generoso. Prima il senatore Sacconi parlava di rigidità del nostro sistema previdenziale, bisogna tener conto, appunto, che le riforme che sono succedute al sistema previdenziale hanno introdotto delle regole molto, molto rigide per rispondere sostanzialmente non a una logica di mercato del lavoro, ma a delle emergenze di finanza pubblica. Allora, se uno tenesse ben monitorati questi indicatori, scoprirebbe che, appunto, il nostro mercato del lavoro è avvitato in una cosa estremamente pericolosa, che gli economisti, c'è, cioè il professor Della Ringa. Davide, ti interrompo perché evidentemente oggi è la giornata, abbiamo qualche problema di linea anche con te, e non credo che gli altri che sono in linea con noi ti stiano sentendo. Facciamo una cosa, allora, passiamo alle politiche attive. Cristina Ghiringhello, come si diceva, direttore di Forem, la società di Confindustria Padova per la formazione. Insomma, voi vi occupate molto di questi over 50, over 55. Come funziona? Funziona abbastanza bene, vorremmo fare ancora di più, perché purtroppo la soluzione preconfezionata non ce l'abbiamo nemmeno noi, però ecco, in questo momento che continua a essere molto pesante, io vorrei portare anche una voce positiva, che torno a dire migliorabile, ma comunque positiva. Noi ci occupiamo in generale di formazione e da 4 anni a questa parte abbiamo spostato tantissimo l'attività per le persone non occupate, oltre che per gli occupati, perché continuiamo anche a pensare che debba essere un processo continuo. E sulla parte delle persone che hanno perso un posto di lavoro o che lo stanno ancora cercando, ma lì insomma si tratta appunto di giovani, non è l'argomento di oggi, noi facciamo tante attività finanziate di formazione a seguito appunto della perdita del posto di lavoro, quindi con passaggi prima in cassa integrazione oppure direttamente con la mobilità. Noi abbiamo ottenuto per fortuna tanti finanziamenti partecipando ai bandi di Fondi Impresa, che è il fondo interprofessionale partecipato da Confindustria e dai sindacati CGIL, CISL e UIL, e ovviamente ci preoccupiamo anche di reperire ulteriori finanziamenti a livello regionale o direttamente alla Comunità Europea. Noi abbiamo un processo che sta funzionando tutto sommato bene, quindi facciamo tanta attività di formazione d'aula, ma soprattutto tanto accompagnamento e tanti percorsi di counseling e di motivazione individuale, perché obiettivamente in un percorso formativo, per quanto lungo si possa fare, non possiamo creare ex novo figure professionali. Ovvio. Ma la grande sfida è proprio quello di far capire alle persone che non sono sole, non sono le uniche a trovarsi in una condizione difficile, e aiuta anche questo, un confronto con altre persone, dare loro spunti, dare loro supporto, ma fare in modo che siano loro a cercare il lavoro, perché noi possiamo anche aiutarli in un primo periodo, però oggi come oggi è molto difficile avere contratti a tempo indeterminato per chiunque, e ancor di più è piuttosto, purtroppo abbiamo sentito anche la testimonianza diretta su questo, su persone che non sono più alla prima ricerca occupazionale. Quindi l'impegno è fare in modo che la persona agisca direttamente e abbia gli strumenti per cercarlo. Vorrei avere, se possibile, da lei qualche numero su questo, quanto riuscite ad incidere pur nel vostro piccolo naturalmente, e quanto le persone che hanno superato una certa età si rivolgono a voi, quanto riuscite a riqualificarle, a riportarle sul mercato del lavoro? Allora, dati numerici dicono qualcosa, magari non tutto, però noi in questi ultimi 3 anni abbiamo formato persone non occupate per un totale di 3.100 persone. Abbiamo ancora un tasso di ricollocazione del 60%, ovviamente con varie forme contrattuali. Quindi la maggior parte delle persone ha ottenuto un contratto a tempo determinato con una media di contratto di 13 mesi. Abbiamo una ventina di casi di vera imprenditorialità, quindi non come la testimonianza della signora Zecchillo, che insomma ci ha detto che non era così vera la sua partita IVA, ma queste proprio persone che sono uscite da corsi di autoimprenditorialità e che hanno deciso di fare il salto e quindi di costituire una piccola società. Qualcuno l'ha fatto anche mettendosi insieme ad altre persone che ha conosciuto dentro i percorsi. Qualche tempo indeterminato, ma abbiamo una percentuale di poco più di un 10% di tempo indeterminato, e altre forme contrattuali, soprattutto tramite le agenzie per il lavoro, quindi comunque altri tempi determinati. Allora, questo mi sembra molto interessante. Io intanto saluto Cetti Galante, amministratore delegato di Into, la società di outplacement di G Group, che è uno dei principali operatori appunto sul mercato del lavoro. Buongiorno, Galante. Buongiorno. Però prima vorrei girare una domanda, una riflessione in base a quello che ci diceva Ghiringhello, richiamando in causa il professor Della Ringa. Abbia pazienza, non riesco ancora a dire onorevole, insomma, in Parlamento mi viene ancora da dire professor Della Ringa. Non c'è problema. Allora, professor Della Ringa, c'è anche un po' di, se vogliamo, scarsa conoscenza e scarsa attitudine anche delle aziende, anche delle associazioni a questo tipo di ricollocamento, insomma, di riqualificazione dei lavoratori? C'è un sistema da questo lato che non funziona, a prescindere dalla crescita, no? Che è certo, come dice lei giustamente, è il fattore determinante, perché quando c'è la crescita i posti di lavoro li trovano tutti, e però no, un lavoro più forte da questo lato si può fare, evidentemente, come il caso di Forema dimostra. Sì, certamente, dico, politiche che possono attenuare la mancanza di lavoro ci sono e possono aiutare, vanno sotto il nome di invecchiamento attivo, no? perché molto spesso per le aziende il problema è quello della produttività dei lavoratori anziani di fronte a un costo del lavoro che talvolta cresce nel tempo ed è più elevato di quello dei giovani. Quindi il problema è di far quadrare i conti quando si devono tenere dei lavoratori 4-5 anni in più di quanto le stesse aziende avessero programmato. D'altra parte la popolazione invecchia. Sono d'accordo con Sacconi che si doveva pensare a una gradualità maggiore, ma la tendenza è questa, dobbiamo lavorare di più per mantenere in vita un sistema previdenziale che non sia un disastro dal punto di vista finanziario, e quindi le aziende devono abituarsi a tenersi dei lavoratori anche più anziani e devono loro stesse adattare la loro organizzazione in questo senso. Le faccio un esempio, se ho un minuto di tempo. La BMW ha recentemente in uno dei suoi stabilimenti fatto proprio un esperimento, cioè ha cambiato l'età media del personale aumentandola di 10 anni attraverso spostamenti, i giovani li ha mandati in altri stabilimenti e ha fatto arrivare degli anziani in modo da mimare quello che sarebbe la situazione fra 10 anni quando la popolazione di quello stabilimento avrà 10 anni in più, e ha studiato appunto se era possibile fare degli interventi per mantenere la produttività di una forza di lavoro più anziana anche proprio con interventi diretti a far sì che questi lavoratori siano più produttivi, addirittura intervenendo anche sulle moquette dei pavimenti perché la gente non scivolasse, e ha trovato che con opportuni accorgimenti organizzativi è possibile mantenere la produttività più elevata anche con una popolazione lavorativa più anziana. Ecco, questo significa guardare lontano, avere la capacità di precorrere i tempi e fare in modo che i problemi che si dovranno affrontare possono essere affrontati senza un carico di ulteriore costo per le aziende. Questo è un esempio enorme di active aging che le aziende dovrebbero essere incentivate anche a fare, perché non c'è dubbio che il mondo delle imprese deve adattarsi a una forza lavoro più anziana. Aumenta l'età biologica, deve aumentare anche l'età lavorativa, anche perché i giovani entrano nel mercato del lavoro sempre più tardi e quindi per accumulare quegli anni di contribuzione avranno bisogno di lavorare più a lungo. Certo. Quindi quello che si potrà fare all'interno delle aziende sarà fondamentale. L'outplacement è un oggetto quasi sconosciuto in questo paese, insomma, se ci spiega bene in che cosa consiste e che cosa si può fare, insomma. Sì, in Italia è uno strumento poco utilizzato, mentre negli altri paesi europei è un must, no? Quando una persona perde il lavoro si affianca immediatamente un supporto alla ricollocazione per accelerarle il rientro nel sistema contributivo. Da noi è uno strumento poco utilizzato. Basti pensare che tutte le società di outplacement negli ultimi 3 anni hanno supportato quasi 25.000 persone, che è niente, no? Paragonato al numero di quelli che hanno perso il lavoro. In TU più o meno supporta 3.000 persone l'anno, vuol dire accompagnare le persone nella ricollocazione professionale, mediamente ci si impiega 6 mesi a ricollocare le persone, per gli over 50 i tempi sono più alti di quasi 1 mese mediamente. Noi ne supportiamo quasi 1.000 l'anno di persone over 50, i risultati sono, e l'approccio è diversificato per livello, no? Se parliamo di operai, l'operaio specializzato over 50 non ha grandi problemi di rientro, devo dire, sono figure in genere abbastanza ambite, se pensiamo oggi ai tornitori, a manutentori, sono figure molto richieste. Diventa più problematico man mano che sale il livello e si arriva soprattutto sul livello manageriale. Antonio Pizzalis, buongiorno. Buongiorno. È un'altra delle storie che abbiamo deciso di raccogliere per questa puntata. Brevemente, la sì. Sua. Sì, brevemente. Buongiorno a tutti, anche agli ascoltatori. Brevemente, praticamente io mi ritrovo dopo 39 anni di lavoro in una terra di nessuno dove sono praticamente impossibili. Che lavoro? Io ho lavorato nell'industria metalmeccanica, elettronica metalmeccanica. Cos'era, un operaio? O... Sono partito come apprendista ovviamente, ma poi il mio percorso è stato studente lavoratore, mi sono diplomato, mi sono qualificato tutto a mie spese, fino a diplomarmi ovviamente e far parte appunto dei manager dell'azienda, e quindi un certo livello anche di competenze. E sentivo una signora dove parlava appunto che è molto più facile per un manager trovare ricollocazione nel mondo del lavoro. No, in realtà era il contrario, diceva che era per gli operai, era per gli operai qualificati più facile. Ho capito, ecco, e non sentivo. Va bene, comunque alla fine io mi ritrovo in una situazione, praticamente una terra di nessuno, dove sono, siccome ovviamente la mia situazione personale è personale, specifica, e la mia azienda ha chiuso l'attività e mi trovo impossibilitato a proseguire il percorso lavorativo, perché con tutti i miei sforzi sto cercando Quanti anni ha lei? 56 anni. 56 anni, e quindi 56. Sostanzialmente le mancano 11 anni alla pensione, questo? No, in teoria ai 40 anni di lavoro me ne mancherebbe uno. Però vabbè, sono stati aggiunti questi 2-3 che ho anche alla fine digerito, nel senso che li accetterei anche, ma diventa impossibile, non trovando lavoro questo traguardo si allontana sempre più. Certo. Ecco che si vive anche in uno stato d'animo veramente opprimente da questo punto di vista. Lei giustamente dice sì, insomma, questi 3-4 anni va pure bene, basta farli lavorando, insomma, no? Lavorando, sì, oppure una mia proposta, cioè il mio contributo a livello di idee potrebbe essere anche questo, cioè un periodo, una fascia di rispetto in cui un periodo di disoccupazione possa valere ai fini pensionistici, anche quello potrebbe essere una soluzione. Poi ovviamente questo è un discorso che riguarda il politico, la politica, certo, non il singolo. Certo, naturalmente. Allora, Davide Colombo, che insomma abbiamo sentito prima, con la sua idea, secondo me giusta, di rendere un po' più trasparente tutto questo, per rendere più trasparente anche il dibattito su questo tema, la disoccupazione di lunga durata e la disoccupazione degli over 50, abbiamo sentito, Davide, anche qualche esempio, no, di tentativi di ricollocare questi lavoratori che hanno avuto successo. Ti giro un po' la stessa domanda che ho fatto a Della Ringa, insomma. L'impressione è che ci sia poca coscienza, come segnalavi giustamente tu, e conseguentemente anche poca politica attiva per ricollocare queste persone. Sì, noi, diciamo, il nostro sistema di ammortizzatori ha un buco proprio su queste casistiche di disoccupazione di lunga durata, e questo buco si è purtroppo saldato con la riforma delle pensioni di cui abbiamo parlato finora, che strettamente si intreccia con la situazione critica del mercato del lavoro. Purtroppo, siccome non ci lasciamo mancare nulla in questo settore, purtroppo non abbiamo neppure uno strumentario di politiche attive che funziona. In Europa siamo fanalino di coda nella intermediazione domande e offerte di lavoro, abbiamo una rete di servizi per l'impiego che andrebbe totalmente riformata, se ne parla da molti anni. Quest'ultima riforma del mercato del lavoro, molto contestata, aveva una delega per por mano a questo sistema dei servizi per l'impiego. Lo stesso ministro Sacconi, quando era ministro appunto, aveva cercato di affrontare questo aspetto, purtroppo manca, e quando i livelli di disoccupazione sono così elevati, perdere anche solamente un'occasione di incontro tra domande e offerta di lavoro sui territori, anche in settori marginali o in settori in trasformazione, nei servizi, diciamo, la nostra economia si è molto terziarizzata, quindi soprattutto nel comparto dei servizi alla persona, che in questa fase c'è una dinamica sia pur modesta. Ecco, perdere anche questi sviluppi francamente diventa quasi criminale, nel senso che significa lasciare un paese complesso e pesante come il nostro senza una politica del lavoro, io direi quasi anche una teoria della occupazione e della disoccupazione a questo punto, perché non si capisce più quale dovrebbe essere la direzione a cui puntare. L'Europa ha dato degli esempi molto chiari e molto vincenti. Il professor Della Ringa prima citava il caso della BMW, ce ne sono diversi, purtroppo nel nord Europa ce ne sono numerosi e positivi. Ecco, noi ancora non siamo riusciti ad affrontare temi come questi, appunto il tema della vita attiva che si allunga e che inevitabilmente produce che bisogna come dire, riempire questa vita attiva produttivamente, un sistema previdenziale che non può sostenersi e che quindi va riformato. Io propongo un ulteriore contributo, visto che è il 1° maggio e si parla di lavoro in una giornata particolare, ma oltre alle riforme, oltre alle leggi, le parti sociali hanno degli strumenti molto importanti, per esempio i contratti. Abbiamo dei contratti che contengono ancora degli istituti come gli scatti di anzianità o il trattamento di fine rapporto, che non so quanto si concilino con un contesto previdenziale come il nostro. Quanto viene pagato un giovane all'ingresso e quanto costa un anziano in uscita. Ecco, questi sono pure dei temi che forse andrebbero affrontati superando appunto degli istituti della nostra contrattualistica del lavoro che appartengono agli anni 60-70, insomma. Sacconi, senatore Sacconi, mi sembra che gli stimoli arrivati da Davide Colombo siano parecchi, no? A questo punto è interessante una risposta della politica, nemmeno mi metto in mezzo, la lascio solamente rispondere. Io condivido quanto ha detto prima Carlo Della Ringa e ora ha ribadito Davide Colombo con riferimento alla necessità di una riorganizzazione complessiva nelle attività produttive, nella contrattualistica, soprattutto nella contrattualistica di carattere collettivo e quindi anche nella definizione delle dinamiche salariali in relazione all'età, affinché ci possa essere un effettivo allungamento dell'età di lavoro corrispondente all'allungamento dell'età di pensione e corrispondente ancora all'allungamento dell'età biologica. Tuttavia, attenzione, in questo momento noi scontiamo il persistere di una condizione recessiva della nostra economia, nella quale la contrazione dei posti di lavoro è stata aggravata, a mio avviso, da una regolazione recente, quella della legge Fornero, che è stata sbagliata ancor più in questo contesto e che deve essere prontamente corretta, lo dice anche il Presidente del Consiglio, lo dice il documento dei saggi e lo dice quindi io confido che qualche intervento verrà tempestivamente realizzato. Le attività di servizio, di accompagnamento al lavoro si sono in qualche modo via via prodotte. Lei opportunamente ha portato due testimoni importanti, una la dottoressa che lavorava, se ricordo bene, in particolare con il fondo interprofessionale, cioè quel fondo che è gestito dalle organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori insieme e che realizza formazione da un lato e attività private come quella di Intu che si occupano di ricollocamento. Noi dobbiamo far collaborare questi due tipi di soggetti, perché da un lato io penso che sempre di più questi fondi bilaterali debbano fare collocamento, debbano occuparsi di collocamento utilizzando attori professionali per farlo. Ed eccoci di nuovo, come si diceva, questa puntata abbiamo deciso di punteggiarla, scusate, è venuto quasi un gioco di parole, con delle storie. Giorgio Donadoni, buongiorno. Buongiorno. Età, professione, in che situazione è? No, io sono attualmente disoccupato. Ho lavorato 33 anni in una manifattura, poi tramite la crisi ho fatto 7 anni di edile. E però a fine marzo del 2011, cause ancora per la crisi, ho perso il lavoro e l'anno scorso, nel 2012, a agosto, ho maturato i 40 anni di contributi, ma purtroppo chiamiamola, per noi è maledetta quella riforma, mi ha portato a ancora un'attesa di 30 mesi, dico 30 mesi senza lavoro, senza pensione e senza nessun stipendio, perché i 12 mesi di sussidio, calcoli che io sono stato disoccupato nel 2011, sono scaduti, per cui attualmente sono senza niente, zero. Lei ha quanti anni? 56, ho iniziato ho iniziato 15 anni a lavorare e sono un licenziato senza nessuna tutela. Cioè, io dico, io faccio parte di un comitato, abbiamo creato un nostro comitato su Facebook e su internet, e faccio parte, è un comitato licenziati senza tutele, faccio parte dei molti comitati che abbiamo creato per far fronte a queste ingiustizie, perché la nostra aspettativa, tutti parlano di aspettativa di vita, anche la nostra era un'aspettativa di vita, di poter andare in pensione, e invece ci hanno tagliato le gambe. Cioè, io purtroppo, se voglio andare in pensione in più, devo pagare anche le volontarie, perché se non pago le volontarie non arriverò mai alla pensione. E naturalmente, essendo licenziato, non c'hai i soldi per pagarle le volontarie. Devo usare i miei risparmi. I miei risparmi, che non sono andato al mare, non sono fatto le ferie e negli anni scorsi, per poter mettere via quattro soldi per la mia pensione, e mi ritrovo invece a versarli tutti all'INPS, allo Stato. E questo è un furto, secondo me. Perché sono i miei soldi. Ha capito? Sì, è chiarissimo. Allora, ancora con Davide Colombo, collega del Sole 24 Ore. Ascolti, volevo chiedere una cosa. Posso fare un appello ai politici che ci sono, per piacere? Grazie. Sì, prego. Vorrei dire solo una cosa a Sacconi, a Letta e a Napolitano. Non siate sordi ai nostri drammi di licenziati senza tutele. E vi chiedo di salvaguardare tutti quei lavoratori che del 4/12/2011 risultavano essere licenziati e che avrebbero maturato i requisiti pensionistici nei 24 mesi successivi all'introduzione della riforma. Non siamo in tanti, basta solo che l'INPS entri nei loro computer in pochi istanti, avete il numero esatto. Grazie mille. Grazie a lei, Don Adoni, del quale abbiamo anche raccolto l'appello. Davide Colombo, al di là, come hai sentito naturalmente, dei molti che ci parlano, anche molti che mi hanno scritto via mail e anche sulla nostra pagina Facebook a proposito naturalmente della riforma Fornero e degli effetti della riforma Fornero. In questo caso ci riferiamo non a quella del lavoro, ma alla riforma delle pensioni, insomma alla revisione al rialzo dell'età pensionabile, con tutti gli effetti che ha portato, anche quelli degli esodati. Si parlava di licenziati senza tutele. Qua c'è anche una questione che riguarda il sistema di ammortizzatori sociali, perché il punto è anche quello, no? Beh, sì, il problema, appunto, dicevo prima, noi abbiamo un buco di sistema nel nostro sistema degli ammortizzatori sociali che riguarda precisamente queste situazioni al margine dal punto di vista anagrafico e contributivo. Di questo buco si parla da molti anni, in mia memoria se ne parla dalle pubblicazioni della Commissione Onofri, quindi sono oltre 15, 16 anni, 17 anni fa. Il problema è che non è mai stato affrontato in maniera organica questo nodo degli ammortizzatori sociali, è stato replicato con deleghe diverse in diversi momenti di tentativi di riforma del nostro sistema lavoristico previdenziale. Il nodo della mancanza di risorse è sempre stato, come dire, la giustificazione collettiva per non fare delle scelte. E il nodo è vero, c'è un problema di mancanza di risorse, ovviamente. Come dicevo prima, tutti gli interventi previdenziali sono interventi che oramai rispondono a esigenze emergenziali di finanza pubblica e non solamente rispondono a esigenze di aggiustamento, appunto, al margine dell'incrocio tra mercato del lavoro e sistema assicurativo pubblico. E quindi si tratta di un cumularsi di problemi che poi purtroppo diventano quasi insolubili. Quello del nostro ascoltatore che è intervenuto ora probabilmente potrebbe trovare invece una soluzione nelle proposte programmatiche che sono state fatte ieri dal nuovo Presidente del Consiglio, laddove ha fatto esplicito riferimento a forme di anticipo con gradualizzata penalizzazione dell'assegno previdenziale. È un disegno di legge che è stato presentato nel febbraio dell'anno scorso da diversi senatori, tra i primi firmatari ci sono Treu e Chino, ne ho scritto oggi sul giornale. è una forma di flessibilizzazione in uscita che tiene conto proprio di queste situazioni di frizione che apparentemente non hanno soluzione diversa di rientro nel mercato del lavoro. Però appunto quello che dicevo in apertura della trasmissione quando hai ricordato quel mio articolo, il problema è che noi andiamo verso un sistema, un mondo di mercato del lavoro in cui i disoccupati over 55, over 60 anni purtroppo ci saranno, si chiama isteresi del mercato del lavoro, cioè trascinamento di una disoccupazione di lunga durata che diventa strutturale e che va affrontata con degli strumenti appropriati, quindi oltre al sistema delle casse integrazione e delle vecchie indennità di disoccupazione vanno affrontate con degli ammortizzatori appropriati, quindi vanno accompagnate con una contrattualistica appropriata, vanno accompagnate con fondi bilaterali, imprese, sindacati che siano in grado di supportare anche questa realtà che appunto diventa una realtà del nostro sistema lavoristico. Grazie Cetti Galante, amministratore delegato in TU, grazie a Davide Colombo, Maurizio Sacconi, Carlo Della Ringa, Cristina Ghiringhello e grazie a Loretta Zecchillo, Giorgio Donadoni e Antonio Pizzalis che hanno voluto portarci la loro testimonianza. Grazie anche ad Alessandro Marco Tulli in redazione per l'organizzazione di questa trasmissione. Grazie a Roberto Scalteriti in regia, a tutti voi per l'ascolto da Simone Spezia. Seguiteci sulla nostra pagina Facebook, se volete potete anche commentare questa trasmissione, oppure su Twitter mi trovate Simone Spezia, se volete, oppure scriveteci anche nuovo@radio24.it. Ci sentiamo domani. Ricordati! Mancano 61 giorni all'aumento dell'IVA.